è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Matti, siamo tutti matti, urliamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, in fondo a ogni promessa l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti! Eccoci, la zanzara su Radio 24, caro Parenzo, riprendiamo un'altra settimana alle 18.35, ci sei? Buonasera, sì, io molto felice, buon inizio settimana. Cambiamo un po' questa trasmissione, rendiamola un luogo anche di riflessione, un luogo in cui si discute civilmente, non c'è questa solita battaglia con ascoltatori, cediamo un messaggio anche di pace, di speranza. Ma oggi che hai preso? Hai bevuto qualcosa? Ti sei fumato qualcosa? Cerchiamo di essere costruttivi, per esempio parliamo della comunità di Sant'Egidio, ad esempio. Senti, beccati subito questa notizia: Barbareschi aggredisce le Iene e si prende l'iPhone del nostro amico Chipinti. Barbareschi, restituisci subito l'iPhone. Ma dov'è adesso Barbareschi? Non lo so, ti inseguiremo tutta la sera fino alle 21. Restituisci l'iPhone. Erano andati lì i nostri amici delle Iene, Filippo Roma, Marco Chipinti, a chiedere qualcosa al signor Barbareschi, che da deputato stava girando un film e fra poco andrà in Cina, e negli ultimi mesi ha accumulato oltre il 90% di assenze in Parlamento, caro Parenzo, oltre il 90%. Stavano andando a fare alcune piccole domande e sono stati aggrediti dal signor Barbareschi. Ma perché così ancora deputato, signor Barbareschi? Sì, ancora deputato, negli ultimi mesi 90% di assenze, in tutto 55% di assenze, cioè va una volta sì e l'altra no. Beh, si è pure incazzato perché gli hanno chiesto perché. No, non hanno nemmeno avuto il tempo di chiedere, in realtà, da quello che abbiamo saputo. Una cosa pazzesca, signor Barbareschi. Ma la inseguiremo tutta la sera, caro amico Barbareschi. Risponda al suo telefono che è spento e soprattutto restituisca l'iPhone all'amico Chipinti. Ma allora, scusa, in quell'iPhone dobbiamo dare una notizia importante. In quell'iPhone, da quello che mi è stato comunicato, lo posso anche dire tranquillamente, ci sono cose personali che riguardano la famiglia, eccetera, del signor Chipinti, inviato delle Iene. So che non frega niente a nessuno di chi sta in macchina, eccetera. Però è una cosa gravissima. È una cosa molto grave. Restituisca questo iPhone. E poi non si capisce perché i carabinieri accorsi lì non abbiano fatto nulla. Non abbiano fermato, dico solo fermato il signor Barbareschi. Comunque, arrestatelo subito. No, arrestatelo adesso, non lo so. Intanto c'è una buona notizia a proposito di arresti, Te lo ricordi Erpelliccia? Ah, come no? Sì, quel signore che stava spegnendo l'incendio, no? Sì, quel signore che con l'estintore voleva spegnere gli incendi durante... Così ha detto il signor Pelliccia, no? Durante i tumulti di Roma, sì. Diceva, volevo spegnere gli incendi. Sì. Signor Pelliccia ha preso 3 anni. Si è beccato 3 anni, eh? Vabbè, così. Questa è buona, una buona notizia, direi. Signor... Così impara che per spegnere gli incendi non bisogna lanciarlo contro la camionetta dei carabinieri, capito? Non si spegne. Reato di resistenza aggravata pubblico ufficiale, ed è stato assolto dal reato di devastazione. Quelle sono le stranezze della giustizia italiana. Il reato di devastazione, te la spacca tutto, scusa, perché l'hanno assolto? Io però partirei in modo diverso. Tutti quanti parlano di queste primarie del PD, del PDL, tutti parlano. Con calma, però, con la politica parla di queste cose qui, mentre alcuni della Lega bruciano addirittura gli F-24 per non pagare l'IMU. La Santanchè dice che ha un jolly che tirerà fuori in carne e ossa nei prossimi giorni, forse per la candidatura alla premiership o comunque per la candidatura alla leadership del PDL. E però io leggo sui giornali di grandi sprechi. C'è da tagliare, caro Monti, c'è da tagliare. Per esempio all'aeroporto di Comiso, vuoi dirla tu questa, Parenzo, oppure la dico io? Guarda, all'aeroporto di Comiso, caro Lombardo, cosiddetto governatore della regione Sicilia, giacciono da mesi, se non anni, 60 vigili del fuoco che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera perché l'aeroporto non funziona. È tutto pronto, l'hanno inaugurato, ma non funziona. Caro signor Lombardo, batti un colpo. fatti un colpo. 36 milioni è costato l'aeroporto. 36 milioni. Dove sei, Lombardo? 36, dal 2007 fermo per beghe burocratiche di cui non vi parliamo, per carità di patria. Per carità di patria. Bene, qualche audio adesso, qualche audio, qualche voce dal weekend. Storace, Storace urla in napoletano. No, la pacatezza non è per noi non stasera. Non voglio che tu, come al solito, ti scaldi, ascoltatori. Storace, Storace che urla in napoletano contro Monti in un comizio a Napoli. Come si dice a Napoli? Avim, putim, pavam, non avim, non putim, non pavam. Vabbè, i toni sono questi contro il signor Monti, eh? Contro il signor Monti. Poi come farà il PD ad allearsi con Vendola e Di Pietro che sparano a zero ogni secondo contro Monti ancora mi è ignoto, tant'è che con Di Pietro le cose non vanno benissimo. Le cose non vanno bene, non vanno bene. Di Pietro, il PD attua programma del PDL, si faccia l'alleanza da solo, sentiamo. In questi ultimi tempi il Partito Democratico sta attuando il programma del Popolo della Libertà, quindi se va avanti così l'alleanza se la faccio con loro, noi ce la facciamo con i cittadini. Santanchè, grande protagonista mediatica di questi giorni, eh? Grande protagonista mediatica. Pagherò la sanzione ma non pago l'IMU. Lei non lo paga, lei non la paga sulla sua casa? No, io non la pago, poi sono certa che non essendo un cittadino qualunque e quindi a me mi faranno delle azioni, ma sono disposta a investirci su questo, a pagare il 30% in più, il 40% in più. E poi dice, a proposito dei matrimoni gay, era meraviglioso ieri il titolo di Libero, Bersani sposa i gay. Per la lettera, è meraviglioso il titolo, per la lettera inviata al Gay Pride con le promesse di una futura legge. In realtà quando il centrosinistra è stato al governo negli anni di Prodi, eccetera, ebbe grandi difficoltà per arrivare alla fine al nulla, Certo. Ma qual è il gay che si vuole sposare, Santanchè? Qual è quel gay che si vuole sposare, vuole il matrimonio? Certo. Non c'è questa esigenza, è una bandiera ideologica. Questo da Klaus Davi. Intanto Formigoni evoca il complotto, l'ordine contro di me di scatenare la campagna mediatica contro di me è arrivato direttamente da Botteghe Oscure. In Botteghe Oscure immagino che Formigoni sappia che non c'è più. Comunque, non c'è più da qualche anno. Sì, vabbè, cioè. Ma è una evoca, diciamo, il Partito Democratico, no? L'ordine è partito da Botteghe Oscure, l'ordine è partito dal cuore centrale del Partito Democratico. Mettete sotto scacco tutti i governatori di centrodestra. Il primo è stato Chiodi, nel novembre, via via tutti gli altri, fino a quando maggio sono arrivato me. Sullo sfondo ancora polemiche sulla RAI. Intanto è con noi, ben ritrovato da Strasburgo, il mitico Mario Borghezio, buonasera. Buona Padania a tutti, buona Padania a tutti da Strasburgo. Senta Borghezio, sempre. Io mi sono emozionato ieri sentendo quest'inno durante Italia-Spagna, caro Mario, caro, mi sono emozionato, lo senta anche lei. Cosa hanno trasmesso? Funiculì, funiculà? No, questa è buona però, no, le faccio sentire una canzone che io ho sempre nel cuore, devo dire la verità, non credo che lei... come dire, no, la tenga in conto, per usare un'espressione alla Giuliano Ferrara, però, senta. Fratelli, canti con noi, Borghezio! L'Italia! L'Italia! Sono rauchetto stasera. Come? Sono un po' rauchetto e poi... diciamo così che è andata ancora bene, perché di solito porta una scalogna terribile, invece mi pare che abbiamo pareggiato. Ma ecco, di solito c'è sempre l'inno. Non è andata malissimo. Ma c'è sempre l'inno, Borghezio, non è che di solito porta certo. Male. Perché l'inno italiano porta male? Ma è un po' funebre come tematica, come musicalità. Ma lei fa il tifo? Non è il massimo dell'allegria. Ma lei fa il tifo per l'Italia oppure non gliene frega una beneamata mazza come di solito? No, quando gioca l'Italia dentro ci sono anche i padani, quasi tutti, diciamo così, di etnia padana. Chi sono di etnia padana, scusi? Balotelli. Balotelli è padano di etnia, eh? Sì, Balotelli c'ha di bello il nome, di battesimo. È veramente molto bello. Cioè Mario, le dice lei? Beh. questa. Beh, perché lei condivide. Privato in atti d'ufficio. Però scherzi a parte. Diciamo, però che... è bello vedere Balotelli titolare in nazionale, sì. Una nazionale multietnica. Ma è sempre meglio di altri paesi come la Francia, dove non c'è un francese a pagarlo un miliardo. Ecco, noi perlomeno siamo ancora in maggioranza. Quindi... Ma quelli sono francesi, però. Ma guardi che è italiano Balotelli, poi. Sì, appunto. Dico, come etnia mi sembra un tantino, diciamo così, mescolata, però mi pare un Braunfels, ecco, tutto sommato. Beh, insomma, è cresciuto a Brescia, in provincia di Brescia. Sì. Andiamo bene, mi sembra di quelli per bene, ecco. Beh, è un po' discolo, cioè un po' discolo come personaggio. Ma però è anche. Diciamo di civiltà nostra, ecco. Civiltà nordica, di civiltà, dice lei. Nostra. Dico, no. Senta, però io voglio dire, la Padania è scomparsa, cioè non ci sarà più i mondiali con la Padania, cioè da quando Renzo Bossi, insomma, non c'è più, non se la fila più, non ha più in mano. Ma io penso, l'animatore era Siegel. E anche Renzo. Renzo ha dato la mano, però... Diciamo l'iniziativa partiva da prima. Lì è tutto quindi finito, penso, su Borghezio, è tutto io finito. Io penso che continui, perché è una bella iniziativa. Tutto quello che fa circolare il nome di Padania è benemerito nel mondo. Però mi sembra un po' in ribasso in questo periodo il nome Padania. Non vorrei essere con lei un po', però mi sembra un po'... No. Ma guardi, abbiamo avuto alti e bassi, ma poi siamo... Il discorso Padania e Lega è come l'erba gramigna, più la tagli più ricresce rigogliosa. Ah, dice lei, eh? Siamo radicati e sputiamo sempre fuori, ecco. Quindi, come funghi, insomma, come funghi, no? Tempo al tempo. Beh, si emozioni anche lei, caro Borghezio, so che alla fine... Oltretutto si sente male, è anche un po' offuscato qui da Strasburgo, e quindi è un inno che non buca neanche l'orecchio. Comunque è legittimo l'uso del burka a Torino, secondo una sentenza. Siamo diventati la capitale europea del burka, grazie a certe pronunce giudiziarie. Vabbè, ma qualche burka in giro che male fa? Ma che male c'è? Qualche burka... è una questione di principio, perché... In tutta Europa si stanno mettendo i paletti contro questo burka, che viene considerato uno strumento di oppressione. Ma lei se vede di fronte, se lei di fronte si trova una donna con il burka, che reazione ha? La prima reazione che lei vede? Ma la prima reazione che io ho avuto un giorno, ero su un mezzo pubblico, non mi ricordo se era Torino o Milano, perché anche a Milano ce ne sono da tutte le parti, tra l'altro. Sì. Bastoni oggi ha indirizzato Max, un'interrogazione anche per chiedere che a Milano si facciano i controlli sui mezzi pubblici. Signor Bastoni, scusi, perché no, Bastoni, consigliere comunale a Milano, certo, no? Allora voglio dire, la prima esperienza l'ho avuta su un mezzo pubblico in Italia, e non mi ricordo se ero a Torino o a Milano, e devo dire è stato quasi di spavento, perché questa era un'ombra nera. Non c'era anche molta luce, devo dire, mi sembrava quasi un fantasma, diciamo così, di una persona che arrivasse dall'oltretomba. Ma se oggi lei si trova... Immagino quale reazione possono avere, per esempio, dei bambini, insomma... Che reazione possono avere? Magari si mettono cose che possono anche spaventare. Ma si mettono a ridere magari i bambini? Ma chi dice? No, non è un'immagine tranquillizzante. Comunque il punto è un altro. E qual è il punto? È vero o non è vero che tutta l'Europa civile lo considera uno strumento di oppressione della donna, appunto? Sì, domani. Quello sicuramente. Ma certo. È vero o non è vero che molti paesi civili e liberali, liberisti, e dunque Francia, che fare? Patria, dico, che fare adesso? Lo proibiscono. Che fare dopo questa pronunzia a Torino? Scusi, Borghezio, a questo punto che fare? Ma io dico che... Si faccia venire in mente qualche cosa, un'iniziativa? Io dico una delle sue moderate. La prima cosa da fare sarebbe quella... di fare un esposto. Vabbè, queste sono le pratiche burocratiche. Un esposto al CSM nei confronti dell'autorità giudiziaria, perché cioè o le leggi valgono o invece si interpretano, e questi qui nei confronti dei loro amici le interpretano, nei confronti di quelli che invece li stanno meno simpatici li applicano. Sì, ma non è che li mettete a strappare i burka, non è che le onde padane. No, il discorso è diverso. Come mai a Torino, come anche a Milano, la forza pubblica non viene invitata a fare gli accertamenti. Sono persone di cui non si riesce a capire nemmeno, non dico l'identità o la nazionalità, vabbè, ma nemmeno se siano... Comunque non c'è più il Borghezio di una volta, Parenzo. Il Borghezio di una volta avrebbe fatto grandi iniziative a Torino, sì, contro, beh, le donne in burca. L'abbiamo saputo mezz'ora fa, e quindi è chiaro che... Dovete organizzare. Si muovere. E quello che si deve, sì, fare è chiedere ai sindaci, cioè a chi rappresenta la cittadinanza, di, sì, prendere posizione. Se io fossi consigliere comunale di Torino mi sarei già mosso. Bastoni l'ha saputo oggi e l'ha fatto immediatamente. Max, quindi noi, Bastoni, siamo pronti a bastonare politicamente questi campioni del politicamente corretto. Senta, Borghezio, una cosa, ma ha letto quello che è successo al suo collega leghisto Dordolo a Udine, capogruppo a Udine? Sì. Beh, è una cosa molto grave. Hai detto delle cose gravissime. Non mi ricordo cosa ha detto. Beh, ha detto insomma che il Po è stato sporcato, il fiume sacro. Vabbè, ma questo, sa, una voce da sé sfuggita, Po, non sono certo io il primo a gettare la croce addosso, però devo dire che immediatamente il movimento ha espulso, lui mi pare che abbia anche chiesto scusa. Devo dire, l'espulsione esagerata in assoluta libertà, che voglio dire. Per contro invece la mobilitazione dei padani, non solo con tessere della Lega, ma molti con tessere della Lega, a favore delle popolazioni, dimostra qual è quello che c'è della nostra gente. Noi siamo gente solidale. Senta, eccetera. Scusi, Borghezio, io però c'è una cosa che mi preme, no? Lo stesso Dordolo a un certo punto ha detto: trattatemi come Borghezio. Borghezio è stato sospeso, invece lui è stato espulso. È una cosa eccessiva l'espulsione contro questo campione della democrazia che è Dordolo. Ma io credo, noi siamo abituati a lasciare a ogni nazione l'autonomia di decisione sui propri iscritti. Nazione, perché il loro sono nata nazione. Ma chi è la nazione? Qual è la nazione? Nazione, c'è la nazione Piemonte, la nazione Lombardia, c'è la nazione Veneto. Perché voi parlate così, nazione, nazione. Di solito non ci ingeriamo, però se posso dare un mio parere personale. Dia il suo parere. Se il dirigente è un dirigente che non ha precedenti gravi, Insomma, se è la prima volta che dice una fesseria del genere, io sarei per una certa cautela o comunque per rivedere, ma lui credo che abbia gli strumenti per ricorrere. Comunque l'espulsione è esagerata, se è la prima volta è esagerata. Questa. Ma l'espulsione mi sembra un tantinello eccessivo. Anche se di questi tempi, con quello che ci sta venendo addosso, bisogna stare molto attenti. Molto attenti, lei, certo. Lei ha visto benissimo che anch'io centellino un po' le parole, perché è diventato un po' democristiano. Democristiano. Sono rimasto il leghista di sempre, solo che vedo questa giustizia a senso unico, cioè questa che gira col burca, che non si fa riconoscere, che manda a farsi benedire quelli che la vogliono identificare, e che viene denunciata da un cittadino. Ecco, io darei una croce di cavaliere al cittadino che denunciò. Senta, scusi, Borghezio, ma lei andrà a trovare, lei andrà a incontrare il presidente serbo Nikolic a Bruxelles? Nikolic credo che venga, se viene lo tratteremo come merita, come un patriota, quindi un uomo... Patriota? Certo che è un patriota, Parenzo. Scusi. Ha detto anche che Srebrenica non è stato un genocidio. Appunto, questo conferma che è un patriota. Dunque, lei va a incontrarlo. Ma io, tutte le volte che vengono qui degli uomini politici che rappresentano i loro popoli, li accolgo volentieri. Adesso io non è che abbia dei rapporti particolarmente stretti. Però se ci fosse l'occasione, ben volentieri. Quando viene un patriota, guardi, io penso che noi in Europa non dobbiamo distinguerci in centro, destra e sinistra, ma fra patrioti e fra gente. Nikolic c'è un patriota. Tra i patrioti a cui questa Europa sta molto sulle palle, certo. E gente che si è venduta al mondialismo, a quest'idea. Per cui hanno massacrato migliaia di musulmani. Non ho capito, scusi. Hanno massacrato migliaia di musulmani nella strage di Srebrenica. Scusi, Borghezio. Sì, questa è una questione ancora molto controversa. Non è una questione, ma come controversa? Chiarezza, eccetera. È una questione molto controversa sulla quale ovviamente Nikolic ha fatto bene a dire quelle parole, comunque. Cioè... No, ma io dico, è presidente della Repubblica. Va accolto, va accolto. Però la dica tutta. Borghezio, la dica tutta. A lei quelle parole hanno fatto molto piacere, quelle parole del signor Nikolic. A me fanno piacere tutte le parole che vanno nel senso del patriottismo. Del patriottismo. E questa invece è una questione controversa sulla quale bisogna vedere come stanno le cose. Certamente io non sono fra quelli che sposano la tesi che i serbi hanno fatto solo genocidi, invece quelle bambolette dei kosovari erano quelli che distribuivano le caramelle, diciamo. Bene, eccoci qui, 19:16, la Zanzara, riprendiamo. Parenzo, dove sei? Dove sei? Mi manchi. Eccomi, volevo fare un saluto alla comunità di San Egidio. Ma perché sei fissato oggi con questa stronzata? Ma lo spieghi perché sei fissato con questa stronzata? Che c'entra la comunità di Sant'Egidio? Perché bisogna introdurre questa situazione anche un po' di amore, fratellanza, basta risse. È finita l'epoca delle risse, delle frasi forti dette, del razzismo. Bisogna introdurre amore. Dialogo. Sì, mandami i titoli del TG3. Titoli del TG3. Dialogo. Non fa ridere questa cosa, titoli del TG3. Ma perché ti arrabbi col dialogo? Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il piano da 100 miliardi per la Spagna non convince i mercati. Prima le borse volano, poi tutti giù. Milano la peggiore in Europa, male anche lo spread. 390.000 è l'effettivo numero degli esodati, il decreto del governo ne salvaguarda 65.000, prodotto interno lordo in calo, il dato peggiore da 3 anni. Decreto anticorruzione, nessun accordo tra i partiti, domani il disegno di legge in aula, il governo verso la fiducia. Bersani, la voteremo se il testo resta com'è. Riforme, i paletti del PDL, semipresidenzialismo pregiudiziale per la legge elettorale, l'Italia dei Valori, inaccettabile, Schifani, nuove regole per battere l'antipolitica. Per i magistrati, il killer di Brindisi ha avuto dei complici e voleva davvero colpire le ragazze della scuola di Melissa. Sospeso il preside, troppe interviste. Rissa nella sala del Consiglio Comunale di Roma per il voto sulla privatizzazione della municipalizzata dell'acqua, la CEA. Ferito alla mano il capogruppo del Partito Democratico. Europei di calcio dopo la Spagna, ora per l'Italia la prova più difficile con la Croazia. Napolitano negli spogliatoi della nazionale per dare fiducia agli azzurri. Siamo qui, ripeto, caro Barbareschi, restituisca l'iPhone, il telefono a una delle iene, ci sono dentro foto importanti, foto del figlio, foto private, restituisca il telefono, è anche un reato rubare un telefonino, i carabinieri non sono intervenuti su questo, sembra, sentiamo se squilla il telefono del signor Barbareschi. Ma dov'è? Aspettiamo, aspetta. Ah, ecco, Barbareschi. Forse, non lo so. Fatto gravissimo. Signor Barbareschi, onorevole per giunta, col 90% di assenze, signor Barbareschi. Negli ultimi mesi? Ecco. Sta girando un film e i signori delle ieri, il signor Occhipinti, è andato lì per fargli qualche domandina e il signore gli ha fregato il cellulare. Beh, hanno distrutto anche la telecamera, tra l'altro. Se questo è Futuro e Libertà. Ah no, ma non è più di Futuro e Libertà. No, è tornato sì, no, in realtà è Gruppo Misto. Nel Gruppo Misto, certo. Ci capisce più. Autorevoli non si capisce, Misto. Si capisce più nulla, come al solito. Autorevolissime del Gruppo Misto. Ma scusa, chiamiamo il cellulare della Iena Occhipinti. Adesso lo chiamo. Magari lì risponde. Adesso lo chiamo. 800 24 00 24. Andiamo a Roma, Claudio. Sì, buonasera. No, ho chiamato un po' qua, ma è andato via Borghezio, sta ancora lì. È andato via, era a Strasburgo. No, volevo un bel confronto. Io me lo ricordo, che so, sembrano favole, ma sono realtà. Lui era sottosegretario alla giustizia. Tanti anni fa, quasi 20 anni fa. 94. E allora? 93. E me lo ricordo perché c'era un'unica dipendente, lui appena arrivato in ufficio faceva l'appello, no? Poverina, questa cercava di giustificare gli altri. Vabbè. Alla fine tanto incazzato che dette uno schiaffone all'unico presente al ministero. Vabbè, comunque, allora vabbè, diciamo pure che se dovrebbe vergognare in televisione dopo quello che è successo, ancora parla male dell'inno d'Italia, se dovrebbero vergognare tutti. Rota, Pezzito e compagnia bella. Vabbè, poi un po' meno perché non intende. Sì. Grazie, buonasera. Prego, Giancarlo da Milano, buonasera. Buonasera. Volevate un messaggio di pace e speranza, ma quanta pazienza dobbiamo. Ma io non voglio nessun messaggio di pace e speranza, lo vuole Parenzo che pensa di far ridere con questa cosa. Parenzo è forte. Comunque ho chiamato voglio cambiare i toni più bassi, dimessi, più riflessione. Più riflessione. Comunque, ho chiamato perché voglio perorare una giusta causa. Ecco, posso alzare un po' la voce? Oscar Giannino for president. Abbiamo bisogno di uomini veri. E a bravo, proposito bravo. Di uomini veri, suggerisco anche Sebastiano Barisoni alle sì. finanze. Beh, adesso con questo qua ci andrei molto cauto, eh. Ci no, basta già per il momento. Me la preparazione c'è. Per il momento c'è, sì, quella sicuramente. Per il momento ci basta Giannino for president, sennò diventa una burletta, okay. Sennò diventa una farsa. Va bene, mi lasci terminare la farsetta, sì. Visto che ho l'opportunità. Ai rapporti con il Parlamento, però con la deroga ai controlli sulle eventuali possibili future malefatte. La delega, magari, non la deroga. La deroga. Delega, scusa. Delega ai controlli sulle eventuali possibili future malefatte. Suggerisco i due neutrini che sono Cruciani e Parenzo. Ma guardi, noi non vogliamo nessuna delega e nessun incarico, non si preoccupi, Giancarlo. Era una battuta. Era uno scherzo, d'accordo. Fuori dalle righe, eh. Caro Giancarlo, la ringrazio. Deborah da Perugia, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'intervento. Niente, io mi volevo ricollegare al discorso. Sentiamo se squilla il telefono rubato. Sì, sì, il Burca di Torino, un attimo. Il telefono rubato da Barbareschi. Il telefono di una delle Iene. Vediamo se squilla, Deborah, lei parli, non si preoccupi, fra poco sentirà squillare un telefono. Ah, va bene. Niente, no, io vi ascolto spesso perché mi trovo spesso in macchina per lavoro e diciamo che mi ha un po' sconcertato questa notizia del Burca di Torino. Un attimo, Deborah. L'iPhone di occhi pinti squilla la zanzara. In mano a Barbareschi, forse? Punto interrogativo. È una cosa veramente grave. Su noi ci scherziamo, ma che un deputato... Vabbè, se uno fa un giornalismo, diciamo, come dire, un po' d'assalto, giustamente si può anche aspettare una cosa di questo tipo. Sì, ma che, va benissimo, ma che ti spaccano la telecamera e legano sulla cellulare. Ma ci sta, dai, su. Servizio di segreteria telefonica. Va bene, Deborah, continui lei. Ci sta, niente. Sì, ci sta, voglio dire, ci sta. E poi uno fa le denunce, le cose, ma ci sta. Se uno fa un giornalismo, se lo aspettano anche loro in questo senso... Ma se non si chiamasse onorevole Barbareschi, sì, già intervenuti, capito, però, non la mettere, sì, però non la mettere sul serio. Cioè, il punto è questo: chi fa una cosa di quel tipo si aspetta che uno prenda la telecamera e la spacchi. Non dico che lo faccia apposta, assolutamente no. Però se lo può aspettare, non è una cosa bizzarra, è successo già parecchie volte. Per ma cui... non da Barbareschi, magari. Vabbè, ma infatti, io non sto dicendo che io non sono dalla parte di Barbareschi, figuriamoci, sono dalla parte della logica. Se uno fa un giornalismo di quel tipo, cioè andare a rompere i coglioni, come facciamo noi peraltro a Barbareschi perché è assente in Parlamento e perché è deputato e gira i film, a un certo punto uno si può anche aspettare che Barbareschi si incazzi, ed è quello che succede. Anzi, io mi aspetto come che dire, la polizia intervenga, però scusa, questo è un altro discorso. La polizia è intervenuta, circondate l'edificio, chiama Manganelli. Vabbè, la polizia, i carabinieri, quello che sia. Deborah, mi scusi, continui. No, stendiamo anche da parte mia un velo pietoso, diciamo pietoso, su questo atteggiamento di Barbareschi, al di là del furto del telefonino, ma anche delle sue assenze. Ma poi il furto del signor Occhi Pinti, che è uno qualunque, Occhi Pinti, capito? Vabbè, quello è un amico tuo, è un amico nostro. Sicuramente vedremo il servizio alle Iene, per cui ognuno di noi, poi anche chi non ascolta il servizio in questo momento, quindi? Trarrà le sue conclusioni. Quindi niente, volevo intervenire sul discorso del Burca. Allora, diciamo che mi interesserebbe capire a fondo quello che pensa lei, signor Cruciani, e il signor Parenzo, che oggi ha aperto molto pacatamente questa trasmissione. Perché a me, al di là dell'aspetto religioso, no, che è condivisibile, al di là dell'aspetto ideologico, però mi sembra di ricordare che in Italia ci sia una normativa, forse nata al tempo degli anni di piombo, dove non si poteva andare in giro non riconoscibili, no? Per cui io immagino che se una persona, un uomo, una donna, entrano in un ufficio pubblico, in un mezzo pubblico, con un passamontagna o un casco in testa, destino qualche preoccupazione. Penso che la stessa cosa debba suscitare una persona che comunque, al di là che non ha il guardi, casco in testa, Deborah, le dico, ha un tessuto nero, va che benissimo, però non le posso, benissimo, no, io posso capire le sue preoccupazioni, le dico quello che penso sinceramente. A me non me ne può fregare di meno, cioè non, a me che ci sia il burka, che venga vietato, che non venga vietato, lo trovo una cosa francamente poco interessante. Sì, probabilmente se uno è totalmente, se poi uno gli va di andare in giro col burka, a meno che poi non ci siano reati contro la persona, eccetera, sottomissione, certo. Cose di questo tipo, vessazioni nei confronti della donna. Se uno vuole andare in giro col burka, è importante che poi a un certo punto arriva un carabiniere e ti dice: scusi, lei come si chiama? Hai documenti? Uno consegna i documenti, viene registrato, punto e basta. Poi se uno entra in un ufficio pubblico coperto dal burka, pazienza, entrerà col burka coperto. Non mi pare che i terroristi abbiano bisogno di andare in giro col burka. Grazie. Andrea da Milano. Sì, salve, buonasera. Vada. Allora, io intervenivo sullo stesso tema della signora che è intervenuta poco fa, ma non tanto con lei, diciamo che vabbè, mi interessava la posizione di Parenzo, perché lui si è tanto indignato di Mister Dordolo, com'è che si chiama quella persona a cui avete dato tanta pubblicità? Dordolo, voi, eh? Dordolo, signor Dordolo. Detto anche razzista schifoso. Sì, però scusatemi, quella gente lì, posso dirvi una cosa? Allora, Facebook è un fantastico social network con quasi 300 milioni di persone. Ma perché tra quei 300 milioni di persone andate a cercare proprio le teste di cazzo che scrivono queste cose? Cioè, scusi, ma l'ho scritta io quelle cose? No, lo sa meglio di me che non fa notizia se non passa la zanzara, non passa sui giornali, non lo si fa passare. Guardi, ma che non si fa passare? Uno su Facebook scrive... Questo qua deve essere cancellato dalla memoria. Questa è la sua teoria che rispetto, Andrea. La realtà è che quel signore scrive delle cose su Facebook, delle cose gravissime su Facebook, che non sono solo quelle che riguardano il sacro fiume, il Po, sporcato da un cadavere. Sì, le mestolate in faccia. Poi le mestolate in faccia, gli omosessuali, eccetera, eccetera. Tutto questo, ma sì, ma... Allora, noi lo chiamiamo, lui conferma, anzi mette il carico da 90 ed è quello. Ricordo, l'ho sentita benissimo. Ma, un attimo solo, il numero. Andrea, si fermi un attimo. Barbareschi? Ci proviamo qui, signor Barbareschi. Ma non risponderà naturalmente. Chiamiamolo da numero sconosciuto, come facevo io una volta con le fidanzate, *31*. Il problema è che spesso quando c'è il numero sconosciuto uno non risponde. In alcuni casi è peggio. Ti devo insegnare sempre tutto. E non possiamo chiamare sul set, nello studio. Chiamiamo l'ufficio, signor Barbareschi. Il set, sì, può darsi il set. Chiamiamo sul set, signor Barbareschi. C'è bisogno dell'iPhone, di una delle Iene, il signor Occhipinti, ci sono foto private, la figlia. No, ma è molto grave, il figlio, ma caro è molto Barbareschi, grave. Il figlio, sì, caro Barbareschi, restituisci. E la zanzara ti fa un appello, sei stato più volte ospite qui, siamo tuoi amici. Caro onorevole Barbareschi, questa volta l'hai fatta grossa. Siamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, in fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura, fragili ed inetti, bugiardi. Gli amori tra Di Pietro e Bersani, l'amore di Di Pietro nei confronti di Bersani, poi alla fine finiranno insieme, questa è la mia previsione, finiranno a letto insieme, finiranno. Non hanno alternative. Però, il 31 marzo Di Pietro, Bersani, un poveraccio. Non spetta a me criticare Bersani, poveraccio. Non vorrei essere nei suoi panni, col partito che si ritrova dietro, che nel territorio, non avete idea che cos'è. Su Casini starebbe con tutti. La maggioranza ABC, quello dell'alfabeto, Alfano, Bersani, Casini. PD, L, PD meno L, Casini, si capisce da solo. Quello c'è che sta con tutte e due. Perché sono due, perché starebbe con tutti quelli che ci stanno. Donne anche voi che imprudente bugia. Matti senza via d'uscita. Una vendolata, vendola berlusconismo e il maschilismo nei palazzi del potere. No. Sì, bellissimo. In che maniera usciamo dall'egemonia culturale della destra? E se il berlusconismo è soltanto, diciamo così, una metafora e non è un'egemonia culturale fondata anche sul maschilismo sdoganato nei palazzi del potere? Il maschilismo sdoganato nei palazzi del potere. Ma che vuol dire? Io le trovo stupende queste cose, molto pop, molto rock, direi. La Rai, dopo la battuta, che non è poi una battuta, la considerazione, il ragionamento, lo sfogo di Carlo Freccero qui ai nostri microfoni alla Zanzara, certo, che ha parlato di alieni riguardo alla Tarantola e a Gubitosi, nuovi leader della Rai, nuovi dirigenti Rai, anche se poi ci sono procedure complicate, eccetera, eccetera. Monti dice: gli alieni mi sfugge come aggettivo. che siano alieni, beh, è un aggettivo che mi sfugge un po' nella sua portata operativa per le decisioni. Ho citato quali sono i criteri. Santanchè alla RAI, meglio Santoro che la TV la sa fare. La sorpresa Santanchè. Anche sulla questione RAI, leggendo quello che ha fatto, trovo che veramente il merito e la competenza non sono del governo Monti. Perché io avrei preferito Santoro, che la televisione la sa fare. Degli alibi perfetti, sì, beh. Dinami dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti. Ma io vado ai matti, veramente. Che c'è? Che succede? Parla. No, che ma fai? Parlo, vado ai matti, perché com'è possibile che signora Santanchè adesso difenda Santoro quando qualcuno, qualche della RAI, ha cacciato Santoro dal servizio pubblico? Ma di che parla la Santanchè? Di che cosa parla? Adesso, pur di attaccare Monti, difende Michele Santoro. Solo una parola. Vergogna. Solo una parola, guarda, vergogna. Ma non è che l'ha cacciato lui, lei, Santoro, eh? No, perché i dirigenti della RAI chi li hanno messi là? Chi li ha intanto messi? Alla RAI. Chi li ha messi? Stai padre zitto. Pio? Stai zitto. Intanto. Padre Pio? Sì, ho capito. Chi ha messo la lei là? Ho capito. Ho capito, il centrodestra, è il centrodestra. Chi è il killer di Santoro? Chi è il killer? Il centrodestra. E allora di che parla? E la signora Santanchè di che area culturale è? Il centrodestra. E quindi per la metà transitiva che ha cacciato Santoro dalla RAI? Sì, cerca di piazzarti in una posizione leggermente migliore, altrimenti si sente male. Intanto alla RAI bestemmione in diretta. Naturalmente non lo facciamo sentire. Durante una trasmissione sugli europei di calcio conduceva Mario Mattioli, sentiamo. Dato il periodo del fascismo che era andata molto male. No, ma porco di questa storia del fascismo. Il fascismo è una parentesi minima, nemmeno 20 anni. E che ci dobbiamo stare legati a quello? Mentre la storia italiana è di 3000 anni. Va bene, allora. Grazie ad una mela siamo entrati. E va bene, questo succede alla RAI. Un professore invitato lì per una trasmissione degli europei, non si sa per quale motivo. Che ha sparato quello che ha sparato. 8-0 può capitare, naturalmente. Eravamo con Andrea da Milano, allora. Sì, volevo, diciamo, la nostra chiacchierata un po' scivolata, ma volevo solo aggiungere che al gesto, che di cui non conosco bene, poi vedrò adesso perché sarà bello vederlo, perché poi quando in azione il signor Barbareschi o ex l'antere della Rovere è sempre piacevole. Ma direi che è ancora più grave perché forse ancora ex vicepresidente dell'autorità delle comunicazioni. Ma no, perché l'ha messo lui. Ma chi? Lui è stato vicepresidente dell'autorità delle comunicazioni. Ma non credo proprio. Guarda. Quando ci facciamo, Scruciani, la venga a trovare in diretta. Ma nella maniera più assoluta, no. Cioè, non mi sei. Quando ci facciamo? Barbareschi, che cosa è stato? Scusi? Forse è stato vicepresidente dell'autorità delle comunicazioni sotto uno dei fondi. Il presidente era un. No. Era forse un in passato. No, aspetti un attimo. No, ma quello è in passato. Guardi, Andrea, calma, un attimo. Non dobbiamo essere. Scetticismo, no, vedrai che ce la faremo. Ce la faremo. Questo è il cellulare dell'onorevole? Sì. Ah, ma conviene chiamare dove si è beccata dentro? Amico mio, ma non è che stiamo dormendo qui, eh? No, lo so, per carità, c'è la prevenzione di persone, sì. C'è la task force della Zanzara, capisco. Certo. Appunto, stiamo cercando, lo stiamo cercando per Mari e Monti. E per incitare tutte le maestranze, sì. Maestranze, ma sì. Come ti permetti di chiamarle maestranze, scusa. Andrea, grazie. Alessandro da Lodi. Io lo so lì come funziona. Alessandro, voglio dirlo anche ad Alessandro da Lodi, perché in questo momento c'è il signor Poli e la signora Laura che sono dietro lo schermo dove sono Cruciani trasmette dalla regia, che stanno impazzendo al telefono alla ricerca del signor Barbareschi. Bisogna dirlo. Pronto? Sì, vada. Mi sente Cruciani? Sì. Salve, i miei genitori seguono sempre la Zanzara e quindi io mi sono e mi hanno proposto appunto di lanciare questo appello, o meglio di far notare questa cosa. Sono iniziati, diciamo, da 3 giorni gli europei di calcio, tutto bene. Io, sì, allora? Diciamo, ecco, il problema è che si è parlato troppo poco e si parla ancora troppo poco di quello che sta davvero succedendo in Ucraina, cioè il massacro di decine e decine di migliaia di cani e gatti randagi, uccisi con i metodi più barbari, sì. Avvelenati, sparati, sgozzati. Io ho visto video allucinanti. No, no, ma Alessandro, è un problema grave. Adesso va bene tutto, però a me queste cose di mobilitazione solamente perché ci sono gli europei di calcio, addirittura qualcuno ha chiesto non so quale tipo di boicottaggio per questa storia della strage di cani e di gatti, per carità, ripeto, una cosa gravissima, tanto per non essere assalito subito dagli animalisti che fanno partire la solita cordata di mail. Però, insomma, importante che ci sia un'attenzione costante, non solamente perché ci sono gli europei di calcio, e poi, insomma, non è che si può interrompere una manifestazione del genere perché c'è la strage di cani e di gatti. Adesso, insomma, va benissimo tutto, però non mi pare il caso. Alessandro, poi? No, scusi? Che voleva aggiungere? No, volevo aggiungere che io comunque non ho chiamato, cioè incavolato solo per l'europeo, nel senso che comunque questa strage è già dal 2009 che avviene. E va bene, purtroppo. D'accordo, ma fa bene a denunciarla. Che appello voleva fare? Non ho capito. No, volevo che appunto, cioè io sono rimasto scandalizzato dal fatto che non c'è stato un calciatore che abbia comunque protestato, a parte un giocatore del Chievo, non dico nomi per non fare pubblicità, è una squadra di Serie B che comunque ha fatto appelli. E sinceramente io ho parlato con Andrea Cisternino. Ma che possiamo fare noi da qui, amico mio? Io è un dramma enorme, lo capisco, mi fa orrore, ma che possiamo fare da qui? Non è che con un appello si risolve, inondate di mail. Ma anche se l'appello lo facesse un calciatore non cambierebbe assolutamente nulla. Non cambia nulla, io vi voglio bene, veramente i cani li adoro, ho sempre avuto un sacco di... anche da bambino avevo un cane, un cocker meraviglioso, si chiamava Cocchi peraltro, Cocchi si chiamava, ha tenuto la mia infanzia, ma con un appello che facciamo, amico mio? Non cambia nulla purtroppo, con un appello alla Zanzara, purtroppo, però... Grazie Alessandro. Miriam da Brescia, buonasera, anzi Mauro da Bergamo prima, Mauro. Sì, buonasera Cruciani. Mi dispiace, ma... ecco, vorrei solo ricordare al... Facciamo il numero dell'iPhone rubato, su intanto. Ecco, esatto, volevo solo ricordare all'onorevole Barbaresco che quello che ha fatto è un reato e si chiama appropriazione indebita. Vabbè, ma questo lo sappiamo, Mauro, non c'è bisogno che ce lo ricordi lei. Ma la cosa veramente fastidiosa non è tanto questo, il fatto che lo faccia un onorevole è abbastanza... Vabbè, ma quello... va bene. No, veramente fastidioso. Va bene, fastidioso. Ha preso l'iPhone, io sono amico di Occhi Pinti, per cui si figuri se non... Oddio, ma si ricorda quando Gasparri, sempre con le Iene, ha mobilitato... Un attimo, l'iPhone rubato. Barbareschi? Rispondi? Ce l'hai in mano questo iPhone che sta squillando? Barbareschi, rispondi! Non si ruba il cellulare adesso agli Occhi Pinti delle Iene? Ci sono le foto del bambino, del figlio? Foto private? Guarda, l'arroganza del potere, fammelo dire. Vabbè, adesso non esagerare, sì, cominci la tua solita fiducia. Come ha detto il moralizzatore, servizio di segreteria. Mauro, allora... Iena, se fosse stato immigrato, lo avrebbero i carabinieri subito, lo avrebbero denunziato, gli avrebbero strappato. Ma i carabinieri magari non sapevano nemmeno come erano andate le cose, su. Ma qui bisogna fare un esposto. Lorenzo ha ragione, è l'arroganza del potere che dà fastidio, perché quando Gasparri ha chiesto ai carabinieri di identificare la Iena e il carabiniere l'ha fatto, sembra quasi che questi pensano che veramente la forza pubblica è a loro disposizione e ne fruiscono come meglio credono. E la cosa sconvolgente è che i carabinieri si sentono molto al loro grave servizio, vengono sminuiti da queste persone. È veramente grave quello che stanno molto facendo. Grave. E quindi veramente non... questo è quello che veramente mi dà più fastidio in assoluto, senza poi parlare di altre situazioni in cui veramente pensano che la forza fisica sia diciamo all'ordine di tutti i giorni, quell'altro parlamentare, la Russa, quando ha dato quel calcettino non voluto all'altro giornalista e ha detto ma sì, ma in fondo era semplicemente un calcettino, voglio dire, siamo a questi livelli. Ecco, un'ultima cosa poi, se mi permette, per quanto riguarda invece le nomine Rai, a me non me ne frega assolutamente niente, ho 35 anni, quindi si immagini un po', probabilmente i politici pensano che lo spettatore medio abbia un'età ben superiore. Io mi chiedo, una persona di 35 anni come faccia ancora a vedere certi programmi? Francamente non lo so, sono di una noia mortale. Vabbè, ognuno sa, fa quello che vuole nella vita, Mauro. Noia o non noia, non è che lo decide lei. Ognuno si annoia oppure si diverte con quello che vuole. Grazie. 800 24 00 24. Massimo da Roma, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire sulle primarie che sta facendo il PDL. No, veramente non le ha ancora organizzate. No, tramite Libero il giornale, hanno fatto un mini sondaggio che sta ottenendo dei risultati. Sì, il giornale, Libero, fanno tutti i sondaggi. Sì, no, ma la cosa sconcertante è che primo sarebbe Berlusconi, secondo Alfano e terzo Gerry Scotti. Ora io mi metto... Allora, Gerry Scotti perché c'è stata la candidatura finta di Gerry Scotti nei giorni scorsi, no? Sì, ma io mi metto nei panni di un elettore del PDL, praticamente sarei umiliato se sapessi pensi che terzo arrivasse una persona, seppur con un viso rassicurante, ma che non ha mai fatto il politico e che quindi batte tutti gli altri candidati, da Gasparri alla Santanchè, a Cicchizzo e tutti quanti, cioè veramente umiliante una cosa del genere. Io non so neanche come chi l'ha tirato fuori Gerry Scotti, perché proporre una persona che non ha mai fatto l'amministratore, per quanto poi potrebbe essere anche bravissimo. Ma è stata un'indiscrezione che sembra che in una di queste riunioni, eccetera, Berlusconi a un certo punto dice ci vorrebbe uno come Gerry Scotti, da lì si è messa in circolo una roba che il diretto interessato poi ha smentito. Su, poi ci sono degli aggiornamenti su Barbareschi, perché qui ma non si preoccupi, abbiamo tutta la serata per rincorrere il signor Barbareschi, che ha rubato un telefono alle Iene, ma abbiamo un grande ospite che torna alla Zanzara dopo tantissimo tempo. La voce più intonata della politica italiana, Alessandra Mussolini, buonasera. Ma cominciamo così? Ma noi le vogliamo talmente bene che mettiamo le sue cose, alcune tra le sue cose migliori, non è che mettiamo le cose... a cantare, signora Mussolini, è bellissimo. Allora come va? Quando ha visto ieri, quando ha visto ieri Balotelli che sbagliava, ha visto la partita ieri? Come si è mosciato Balotelli su quel pallone? Ha visto. Stava per andare e si è afflosciato come quando si sgonfia in pallone. Che gli è presa Balotelli? Sarà la capigliatura? Che gli è fatto? Che gli è successo? Ma che ha detto? Qual è stata la sua prima? Abbiamo giocato bene. Quello non c'è dubbio. Ha visto Napolitano, Napolitano ha portato fortuna poi alla fine. Napolitano, ma non c'è terra che lo sostiene, sta dappertutto. Ma perché non si dà, cioè, un po' di riposo? Vabbè, ho capito, ma è vero che è una trottola. Ma Pertini andava sempre allo stadio, scusi. No, Pertini non andava mai. Ma insomma, come no? Un po' di riposo, su. Sì, andava, ma per le cose, per gli eventi, poi ha detto non sono stato io, mamma mia. Ma ha visto quell'abbraccio con Buffone, gli spogliatoi, beh, insomma, grande, sì. Comunque, grande operazione mediatica quella là, Platini? Platini, la moglie non sapeva chi era Platini, la signora Clio. Neanche dopo, però quello mi è piaciuto, è vero. Sì, quella è una cosa vera. L'unica cosa vera di tutto. Sì. Vabbè, però adesso non è che non può andare in giro il presidente, onorevole Mussolini. Va molto in giro. Va molto in giro. E quello deve fare. Presidente, che fa tutto il giorno lì, invece fa anche altro. È il vero capo del governo, diciamo la verità. Allora, che mi dite sul golpe dei banchieri? Cosa, alla RAI, dice lei? Certo. Il golpe dei banchieri alla RAI? Certo, il golpe dei banchieri, così Monti ha concluso il suo giro. Ha messo una della tarantola persino in Rai, cioè il massimo, c'è una cosa allucinante. Beh, vi ha messo la parte, Rai non finalmente è solo un'azienda, ma è anche qualcos'altro. Mi dite cosa c'entra? Vi ha messo da parte finalmente. Ci ha messo da parte. Mi ha messo da parte, ha alzato la testa. Sì. La politica miagola. Perché lui è un uomo, sì, perché lui è nuovo, è novello, è un novellino. Da questo punto di vista devo dire che l'onorevole Mussolini ha ragione, cioè dipende qual è il mandato, se il mandato è quello di tagliare, privatizzare, d'accordo, va bene così. Se però il mandato è quello semplicemente di mettere due a fare un po' di conti bene, eccetera eccetera, ma di che parliamo? Dipende. Se il mandato è bello privatizzare, fare un po' di pulizia in tutte le commesse, in tutti gli sprechi, sono d'accordo. Vedremo innanzitutto. Però certo, proprio due banchieri, no, onorevole Mussolini, con tutte le... Masso, che l'ha detto pure lui, e mi ha proprio deluso, a parte non l'ho mai votato, ma lui ha detto assolutamente non dite più che sono dei poteri forti, mi sostengono i poteri forti, poi l'ha detto, dice mi hanno abbandonato i poteri forti, cioè non si ricorda neanche quello che ha detto, è molto grave. Beh, non si ricorda quello che ha detto, è una cosa grave, lei dice, cioè, a livello... lui ha detto, è smemorato, dice, è smemorato. No, non è smemorato, è una persona che ha molte risorse, e quindi paraguru. Gran paraguru, sì. A che punta secondo lei al Quirinale? Mi sembra evidente, no? Però sa... Ma io credo che certamente non è che lui si lascia sfuggire un'occasione come questa e poi ritornare a fare il professore. Però scusi, noi Mussolini possiamo dimenticare. Se uno arriva però con no, con, ma uno arriva col consenso dopo tanti basso, mesi. Consenso basso, eccetera. Ma consenso basso, il consenso basso, lui che cosa ha fatto? Oggi abbiamo il PIL che è diminuito. Appunto dico, se arriva con un consenso basso sarà difficile. Debito pubblico che ormai è alle stelle. Anche voi non avete fatto nulla però, diciamo la verità. Pure prima ma non è sì, che... Ma aspetta, ma no, io non metto in dubbio, io non sto dicendo ah ma c'era super, le sto dicendo che lui però, visto che questi tutti erano questi geni, certo, erano geni. Dovevamo aspettarci un minimo di non c'è dubbio, di non c'è dubbio. Non c'è. Vabbè, non è che dipende da loro, non è che dipende solo da loro. Non dipende da loro, ma però abbiamo è vero lasciato che, fare troppo alla Merkel questa cosa. È vero che i grandi professori, gli scienziati, alla fine tutti gli indicatori economici sono una tragedia. È come una tragedia. Vabbè, quello ma è vero, però Parenzo, oggettivamente quello è così, su, sono arrivati... La forza è di tutti, ma certamente loro non hanno preso... Ecco, ma tra questi... Ma signor, ma onorevole tra... Mussolini, ma... È colpa vostra ogni volta. Vabbè, che questo lo sappiamo, però adesso non è che possiamo pensare sempre al passato. Adesso ci stanno questi. Non lo sappiamo. Se c'è questa situazione, è chiaro che la colpa di qualcuno. Senta, sarà. Ma chi è che le fa ridere di più di questo governo? Cioè, proprio quello no, che. No, a me non mi fa ridere proprio nessuno. Io domani mi metteranno la fiducia, voterò un ennesimo no. Ma convinta, sempre più convinta. Mai, non gli ho dato mai la fiducia. Ma anche mai. Lei non pagherà l'IMU come la Santanchè? No, io l'IMU la pago, mica. Pago l'IMU, pago le tasse, pago tutto, perché io non credo che sia... Contesto, non lo votate, lo contesto, e credo che sia una battaglia giusta. Però anche non perché è che la guardia di finanza, cittadini... Scusa. Di non votare e poi ti arriva Equitalia, come arriva, capito? Perché però la Santanchè dice, beh, io pagherò il ritardo, eccetera. No, però... è una battaglia sacrosanta, devo dire la verità, quando c'è da dirlo, bisogna dirlo. Io all'interno del Parlamento, all'interno del PDL, quello che è, cioè il PDL... Quello che è, appunto. Cioè, che è quello che è. Che è il PDL oggi? Non lo so. Non si sa. È una massa informe, ho votato sempre contro. Ma lei oggi lo voterebbe? Oggi il PDL lo voterebbe lei? Ma no, io ma... sempre. Sempre. Il PDL sì. E che è oggi? Altre cose che sto sentendo, no. Altre cose, la lista dei cani e dei gatti. Ma fa piacere i cani e dei gatti. Ma i cani e i gatti veri. Cioè io li sostituirei a molti politici. Io per esempio metterei Rottweiler, Pitbull, Schnauzer gigante al posto del PDL. Bassotti, Barbuccini... E quei cani dei cocherini, vi ricordate? PD? Sì. Ratti, cavie, porcellini d'India con fini, serpenti, serpi delle mose, capito? E poi anche quelli mica li puoi discriminare, i gatti con la Lega, quelli si devono occupare di quello. Va bene, allora abbiamo la pubblicità, torniamo subito, 800 24 00 24, torniamo con Alessandra Mussolini che ci deve commentare le ipotesi delle liste, perché Berlusconi smentisce, ma è tutto vero, lei lo sa, Berlusconi ha in testa di fare un sacco di liste, poi non ne potrà fare nemmeno una, magari cambia la legge elettorale, ma c'è anche la lista della rivoluzione di Sgarbi, il partito della rivoluzione, ci sono tante altre cose. Beh, che voce, Alessandra Mussolini è con noi. Ma mi volete rovinare proprio la serata, perché poi... Ma perché deve rovinarsi? Perché lei vuole rinnegare il suo passato? Io, per carità, che vocetta che c'avevo. Ma che è una voce straordinaria. Io mi ricordo che stavo in Giappone. Sapete chi le ha fatte queste canzoni, pensate? Sì, in Giappone, Cristiano lo so. Cristiano Malgioglio, troppo forte. Allora... No, ma dico che ha una voce, quando canta... No, dico Mussolini, lei ha una voce veramente, non si offende, ma veramente sexy. Ma quando mai? Ma parliamo di cose serie, dell'IMU, delle tasse, della ma benzina, quale IMU? Ma che IMU? Dell'IVA, ci ma la gente ha bisogno, la gente ci ha bisogno. Ci volevano i banchieri, ci volevano per fare questa operazione, ci volevano i banchieri. No, ma quello no, quello no. Piacere. Però la gente ha bisogno anche di rilassarsi. Per esempio, lei che pensa della candidatura? Io non penso più niente. No, però cioè, mi scusi. Allora, voi mi state storcendo, no? Diciamo che ma che storcendo, su, ma quale Ma quale io non ho fatto un comunicato perché io non voglio parlare. Perché? Perché trovo queste cose talmente assurde, quello che sta succedendo. Cioè, le che cosa sto sentendo? Ma perché le primarie si fanno sui contenuti, poi ancora non ci sono le regole, non si sa, già escono i nomi, Libero, il giornale, parlano, fa. Vediamo prima quello che succede, ma sui programmi. Vabbè, cioè, ho capito, ma questo il PDL, ma lo... quali pro... no, ma quali programmi? Programmi? Ma quali programmi? Lo sa, vabbè, benissimo. Sulle facce? Eh sì, facce? Alla fine, scusi un attimo, e facciamolo sulle facce. La Santanchè, lei la voterebbe mai? Altra domanda? Vai, ho capito, però non è che uno non può... Cioè, ma che si renda esplicita questa cosa. Io alle primarie non voterò mai la Santanchè. Basta. Ma io perché devo dire una cosa così? Ma perché io la non realtà... Non so neanche se ci saranno le primarie. Come no? Dicono tutti di sì. Ma l'ha detto Alfano. L'ha io lo voglio ancora. Lo voglio ancora vedere. Voglio capire. Io per ora sto, come tutti gli altri, sto leggendo sui giornali questo moltiplicarsi di liste, listarelli, cani, gatti, sorci e le non so che cosa. Oddio, che è successo? No, non mi dovete far parlare. Perché? Io che è successo? Voglio. Sgarbi, perché? Che male c'è? Il partito della rivoluzione. Ma perché quale? Perché possono, le liste loro le possono benissimo fare. Ma è Berlusconi che le vuole fare. Vogliamo dire così? Io ma lo sa, ma è così, Berlusconi la vuole fare. Non voglio crederci, non voglio crederci, perché è come se tu stai dissanguando un organismo in mille rivoli, perdi consenso, continueremo a perdere consenso. Ma le ultime, ce ne saranno due o tre alla fine di liste. Ma lei lo sa che è così. Ma che due o tre? Ma che due o tre? Niente, ognuno non ci saranno liste. La sua, ognuno si ma perché, farà la sua. Perché non fa la sua anche lei? La donna summer italiana. La donna summer italiana, stupendo. Io ho già dato. Io ho già dato in tempi non sospetti. Mandai dove doveva andare Fini, adesso si vive la totale, ha perso tutte le occasioni. Ma mi dica la verità, lei non si presenta più, lei non si presenta più in Parlamento, basta, è finita. Quante legislature ha fatto? Tantissime ormai. Tante, ma io credo questo, ho fatto delle legislature, ma in questo momento è talmente grave la situazione. Che si vuole ripresentare un'altra volta. Ma io credo che questo poi dipende dagli elettori, non dipende da me, non dipende da noi. Io voglio fare politica perché devo rinunciare a favore di chi? Vabbè, ma tante no, voglio dire, ma ormai... scusatemi, a favore di chi? Dell'onorevole Santanchè, per esempio. Ah sì, io vero poco, come si dice a Napoli, ma mi piacere. Ma fatemi fare una bella cantata. Scusa. No, ma non ho capito, ma perché sennò... Ma perché non ci può essere una convivenza pacifica? Appunto, appunto. Allora io dico perché fare le liste fuori, ma non c'è questo pidiellone che era talmente bello, era talmente adesso sta finendo tutto che non si sa più quello che no, succede. Però pidiellone, la parola pidiellone sta proprio di erotico, il esatto, pidiellone. Il pidiellone. No, noi avevamo un bel consenso, ma che erotico, che qua non c'è più nulla di erotico. Il pidiellone di Berlusconi, il pidiellone di Berlusconi. No, c'era questo bel pidiellone che dobbiamo adesso, se continuiamo con dica, mi piace il pidiellone, mi piace, questo deve dire, mi piace il bel pidiellone di Berlusconi. Vedo che vi state su questo fatto molto, diciamo, eccitando. Sto dicendo che io sono nel PDL orgogliosa di essere nel PDL, però se poi dopo si fanno tante liste, ma lo stesso può essere contenuto all'interno, non è che ognuno deve presentare la propria lista per farsi bello. Non giustamente, Gasparri ogni tanto dice delle cose straordinarie. Ha detto, per esempio, mettiamo che io sia di destra, che abbia meno di 45 anni e un cane. Quale lista vado a votare? Devo dire che questa è buona. Questa è buona. Questa è bellissima, questa, è fulminante, questa perché è la verità. Cioè, vuol dire che uno, allora, io in quale lista mi dovrei candidare? Non ve lo chiedo neanche. No, appunto, qual è la sua... No, non lo so. Tra tutte queste liste in che cosa si candiderebbe? Non mi spieghi. Non lo so, sicuramente non in quella di Sgarbi. Quella di Sgarbi non lo so. Cioè, è una cosa allucinante. Però c'è bisogno di un grillo di destra, no? No, ma perché? Basta con questo grillo, con questi occhi, con questa testa. Oggi, guardate, ha rischiato. La lista di Bertolaso, perché... di Bertolaso è buona pure quella. Ma su, Italia Pulita che mi sembra la lista dell'ama di Alemanno. La lista dell'ama di Alemanno. Sì, Italia Pulita, sai quelli che puliscono le strade? Magari le pulissero. Scusi, ma attimo, però qui c'è una cosa da dire. La Santanchè dice, ho in mente di giocare un jolly in carne ne ossa. L'ha letta questa cosa, no? No, non mi sfugita. Dice che vuole tirare fuori un jolly in carne e ossa. E chi è? E che ne so, sono pronta a calare un jolly e vedrete che di rumore ne farà. Va bene, molto bene, ma questa è una cosa, diciamo, un conto è... Però mi dico una cosa, ha consenso però, ha consenso, onorevole Santanchè, non c'è dubbio, è sempre invitata dappertutto, in televisione, ai giornali, fa grande rumore, insomma... Mi fa piacere, perché fin tanto tu che sei nel PDL e hai... una, diciamo, una popolarità, una cosa positiva. Quando invece ti stacchi e fai una cosa diversa, allora lì diventa una cosa che toglie, non aggiunge. Ma può essere una tutti la pensano così, tutti la pensano così. Cioè, voi parlate delle primarie, io sto pensando al futuro del PDL. Vabbè, ho capito, ma queste primarie sanno da fa o non sanno da fa? Ma sì, ma in modo con cosa, con quale metodo, con quali contenuti, con quale programma, no? Le facce, Gerry Scotti, ho sentito prima. Vabbè, che c'entra? Gerry Scotti esce fuori così perché in questo momento... No, non è uscito fuori così, non è uscito. Cioè chi l'ha detto? Però... Cioè chi l'ha detto? È uscito perché sono tutti sondaggetti. I sondaggi, sì, sarebbe, certo. Sarebbe popolare. Non che... è che esce fuori Gerry Scotti, capito? Non è che esce fuori, è tutto quanto calcolato. E questo che noi, diciamo, quelli che credono ancora nel PDL... Ma scusi, basta. Lei, signora Mussolini, una bella lista di nuovo di destra, con Storace, come la farebbe mai? Sentite, io devo andare a cena tra un po', non mi potete rovinare anche questa sera. Non mi parlate, io ho già dato con Alternativa Sociale, Storace, lo sapete quello che è successo. Sì. Con Lazio Gate, ve lo ricordate? Sì, ecco, no. Come o avete rimosso? No, perché chi ha rimosso? Avete rimosso? No. Ma dice la parola, non ho capito. Mussolini, se uno le dice la parola storace prima di cena, che cosa le comporta? È devastante. Comunque, capito, comunque Santanchè for Premier, qui stanno iniziando i comitati, stiamo mettendo sui comitati. Santanchè. Bene. Beh, molte cose potrebbero, voglio dire, il personaggio c'è, come dire, il personaggio certo, c'è. Ma c'è tutto, c'è. No? C'è il personaggio, c'è tutto, c'è. Ma io non dico, ci sono i contenuti, per esempio la battaglia dell'IMU, io lo sto facendo all'interno del Parlamento. E lei lo sta dicendo fuori, quindi è una cosa, in questo... È l'unica cosa su cui andate d'accordo, l'unica forse. In questo assolutamente, io sto votando sempre contro Monti dall'inizio, quindi non... Lei all'inizio su Monti eravamo un po' più, No, da sempre ho votato contro. No, lei, la Santanchè. La Santanchè diceva che la Fornero era cazzutissima, che c'erano delle ministre meravigliose, stupende. Elogiava anche Monti all'inizio, i primi mesi. Perché all'inizio doveva avere questo atteggiamento. Adesso ma allora è che c'è stata una riconciliazione tra lei e la signora Santanchè? Ma io non ho mi puzza di riconciliazione. Vi siete chiamate? Non ho astio con nessuno. Vi siete chiamate? No, in questo momento sarebbe una follia. Io mi auguro che questi personaggi, che pure servono, no? Che pure posso... Come diceva Totò? Come diceva ormai Totò? Ormai serve tutto. Com'è che diceva Totò? La serva serve. Ma no, questi personaggi che sono utili in qualche modo, sono però utili, non devono fare qualche cosa al di fuori del PDL. Cioè, la Santanchè faccia quello che vuole, è utile però dentro il PDL. Assolutamente, questo è un messaggio che credo molti deputati del PDL e senatori vogliono mandare. Benissimo, mandiamo questo messaggio, questo messaggio un po', no? Questo niente messaggio. Liste civiche, chi le vuole fare con i cani e con i gatti va da un'altra parte. Vada, e la signora Brambilla che fine fa? Dentro al PDL, perché scusate, dentro al PDL non può farlo, lo deve fare fuori. Cioè porti i cani, tenga i cani e i gatti. Queste liste civiche veramente da adesso con un po' di criterio, se ancora è rimasto. Sì. Voi pensate realmente che fare una lista civica di cani e gatti parlanti o di sgarbi di che non so, Storace o della Santanchè o di qualche altro che si pone fuori può realmente battere Grillo? Ma voi ve lo potete dimenticare. È un errore gravissimo, ricordate, oggi è l'11. Comunque i cani e i gatti dentro, al massimo dentro il PDL, questo è il messaggio. I cani e i gatti ormai in Parlamento. Grazie, valuta. Grazie, a presto. Che c'è? Il potere degli animali, l'amore per gli animali. Vabbè, ma non si può fare la lista dei cani e dei gatti, su, ma chi ma c'è? Andiamo, ma dai, su. Ma piacere con gli cani e con i gatti, ma su. Dai, ma ti rendi conto la lista di cani e dei gatti? La gente ma ho capito, ma voi sottovalutate... Ma che sottovalutiamo? Non ma si può fare... Ma chi sottovaluta? Che qualsiasi... All'interno nostro del PDL ci sono tante che sono a favore degli animali, proprio in modo... Ma eppure su. Non è che fanno la lista dei cani e dei gatti. Si ma voi sottovalutate il fatto che i cani e i gatti, i conigli, gli animali spostano voti? Che dice? Scusi un attimo, però un'ultima cosa. Un'ultima cosa, ma c'è una polemica perché Grillo ha scritto una lettera al Financial Times in cui dice non mi paragonate a Mussolini. Guardate, ecco, questo io già lo, oggi, io stavo, ho visto il telegiornale e ho sentito quest'ultima cosa. Sì. Allora, Grillo si deve sciacquare la bocca quando parla di Benito Mussolini. Ecco, lo sapevo. Ma, allora, aspetta, stai zitto, Parenzo, fai parlare, su. Me la fate la domanda o non me la fate? Volete una risposta? Tanto non ci sente nessuno. Ho beh, fatto insomma, qualche comunicato stampa? No, vada. Vada. Allora vi posso dire, si sciacquasse la bocca Grillo, capito bene? Sì. Che lui sa solo dire, non si deve fare questo, no questo, questo e basta. Quindi, e non parlasse di cose che non gli competono, perché quella è storia e lui non è nessuno, poveretto, capito? Con quei capelli da pazzo, da genio pazzo, quindi non pensasse che non pronunciasse il nome dei personaggi attuali, lui può criticare questo, può criticare questa, il resto non si deve dimenticare. Non pronunciasse il nome invano di Mussolini. Come si sente lui? Certamente, cioè, bravo, non pronunciasse il nome di Mussolini invano. Io mi sento, ma che ti devi sentire? Ma che ti devi sentire? Che, rispetto a Grillo, Mussolini è un'altra cosa, adesso no. Ma io non voglio neanche parlare di questo. Io sto dicendo che questo personaggio che oggi si è permesso di dire queste cose non ha neanche un senso. Quindi, ripeto, si deve sciacquare la, se ce la fa, sciacquare la bocca. Benissimo, senta, però è stato in realtà il, chi era? Il Financial Times, credo. Ma quelli sempre. Che hanno paragonato, hanno fatto Severnini. Sì, vabbè, ho fatto un'intervista io con gli americani che gli ho detto di tutti i colori alla fine. Ho detto, ricordatevi che avete sganciato la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Gli unici! Sì, e voi ridete! Gli unici che hanno lanciato la bomba atomica siamo stati noi, sono stati loro, ricordiamocelo sempre. E i giapponesi se lo ricordano molto bene. Scusi un attimo, ma che c'entra? Però, nel senso... C'entra, voi non vi preoccupate, c'entra. Comunque anche il Financial Times che ha paragonato Mussolini e Grillo a Mussolini... Adesso Grillo, a parte che di mio nonno si deve sempre parlare, e adesso perché Grillo fa l'intervista con loro? Lui lo deve fare con Corriere dei Piccoli e con altri quotidiani, no? Financial Times, e di che gli va a parlare? Che dice no su tutto, qual è la proposta? Comunque, no, scusatemi. Comunque si deve sciacquare la bocca prima di parlare. Sì, di... si sciacquasse la bocca, va bene? A presto, grazie, un abbraccio. Giovanni da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ciao, anche caro. Se oggi non è il tema della trasmissione, volevo riportarvi un po' su una delle vostre ossessioni più frequenti, insomma, no? Che sapete qual è. Credo. E qual è? Per caso gli omosessuali? No, come ha fatto a indovinare? Ma non siamo ossessionati. Beh, qui no. C'è stata anche, scusi un attimo, però noi non siamo ossessionati. Prego. L'altro giorno un signore che è il segretario del Partito Democratico Italiano, si chiama Pierluigi Bersani, ha scritto una lettera al Gay Pride dicendo che quando ci sarà lui al governo, o quando ci sarà il centrosinistra al governo, si farà una straordinaria legge per le unioni civili tra gli omosessuali. Cosa che il centrosinistra negli anni passati in realtà non ha fatto, ha promesso ma non ha fatto, perché c'erano i cattolici all'interno. Adesso questi stessi cattolici... Io l'ho detto solo un po' a mo' di battuta... Diciamo che obiettivamente ha una frequenza di trattazione un po' particolare nella trasmissione, niente di più, ma è una lotta legittima scelta, ovviamente. Solamente per dire che non so. No, ma io concordo con lei, perfetto. Non so. Cioè, anch'io che sono un grande sostenitore dei diritti dei gay, non ne posso sentire parlare degli omosessuali, perché per me è un fatto normale, capito? Talmente normale che... No, è come parlare del sole. A proposito di questo, io come ho il sospetto che la modalità della trattazione, ovviamente un po' provocatoria per come la trasmissione e quant'altro, tenda un po' a polarizzare il pensiero delle persone, perché invitate spesso grandi sparatori di stronzate, giustamente come dice lei, omofobe e poi anche rivendicatori, insomma, piuttosto provocatori, e quindi non lo so, secondo me non fa un po' molto bene, è una tematica che bisogna di una certa delicatezza e sensibilità, a mio modo di vedere, nell'essere trattata. Poi ovviamente il taglio della trasmissione lo date voi, è no, questa era un'osservazione. Un'altra cosa invece principale volevo dire era, non capisco perché, di chi sia la colpa, se degli intervistati o degli intervistatori, spessissimo persone o dichiaratamente omosessuali, mediaticamente esposte, parlano di omosessualità. Come se, non lo so, tutta la loro vita si declinasse attraverso questo aspetto, quasi, non lo so, certificando o suggerendo una normalità di cui io non vorrei assolutamente tacciarli, però capisce cosa intendo? Bah, cioè, più o meno. C'è chi pone l'altra sera e mi devo sentir dire: sono 8 anni che non riesco a occuparmi di scienza. Vabbè, ma quello ognuno, no, ognuno. Però, cioè, io, visto che le considero persone normali, ho sempre avuto rapporti meravigliosi. Ma questa è una stupidaggine, dice Chipaone, su, cioè, non è che non riesce a occuparsi di scienza perché invece è impegnato in questa grande battaglia per il riconoscimento delle coppie omosessuali. Questa è oggettivamente una stupidaggine, ma noi dobbiamo lanciare, come sempre facciamo ormai da giorni, la grandissima campagna della Zanzara. Oscar Giannino, Premier. Somari, non fate queste sciocche considerazioni prima di dirmi, capite, che adesso è diventato un centro permanente Giannino contro il governo. Il problema è che Giannino è un liberale, vuole meno tasse e meno spese, e questi mi levano la credibilità, questi qua, gli amici vostri. Siamo un paese ridicolo, ridicolo, che merita solo di essere additato al disonore del mondo e che per questo cresce di meno, anche, chiaro? E io il tossicodipendente Stato lo voglio fermare! A San Patrignano lo voglio mandare, è chiaro? Viva Muccioli! Li chiudeva anche nelle gabbie quando era il caso e rischiava i processi per questo che affrontava. Lo Stato non avrebbe bisogno di niente di meno. 42 miliardi di euro in più di spesa uscite dalle nostre tasse che sanguinano! Ecco, queste sono le cose che dovreste urlare e... eccoci qui alle 20:21, lanciamo ogni giorno questa grande, grandissima campagna per Oscar Giannino Premier. Naturalmente, oltre a queste, dietro queste parole, questa passione, c'è tanto altro, cari amici. Ma c'è competenza, cifre, passione, esperienza, autorevolezza, indipendenza, diciamola tutta. Ma gli farà piacere al signor Giannino questa campagna, secondo te, della Zanzara? Certo, se no non la farei. Raffaele da Milano. Raffaele da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Caro Parenzo, questa sera ha toppato alla grande. Su mi che è andato cosa? Contro la Santanchè. Cioè? Ha detto una roba che non c'entrava niente. La Santanchè per una volta aveva ragione. Su che Parenzo? Cosa? Sul discorso delle nomine della dirigenza Rai. Piuttosto Santoro, ma era un paradosso della serie. Anche Santoro sarebbe stato meglio dei due banchieri. Parenzo, mi dispiace, non ha capito un cazzo. No, mi dispiace, caro ascoltatore, che lei deve anche oltre a sentire le parole, deve attribuirgli anche un significato, lei, però. Cioè, non è che basta capire, sentire una parola e non capirne il significato. La signora Santanchè, che arriva al paradosso di sostenere che era meglio Santoro di questi, intervistata da Klaus Davi, dal grandissimo Klaus Davi. Perché poi si chiama veramente Klaus Davi, no? Vabbè, adesso lascia perdere, su. Però comunque va benissimo. Voglio dire, no, è ottimo. Però a cui vogliamo molto bene. La signora è arrivata a sostenere questo paradosso pur di attaccare il governo Monti. E io ho fatto notare ai radioascoltatori a Zanzara e a lei, che però non ha capito, ma non mi stupisce che lei non capisca. Ma no, Parenzo, lei l'ha detto così pur di andare contro la Santanchè. Ma no, perché ha ragione. E lo dice uno che odia la Santanchè. Ma non è questione di odiare. Però ha ragione l'ascoltatore, perché tu non puoi ogni volta ancora dire no, ma prima cioè ha detto una cosa che va nella tua direzione. Tu preferivi Santoro oppure il signor Gubitosi? Ma io indubbiamente preferisco. E allora Santoro. Basta, dopo allora devi dire che ha ragione la Santanchè, no, su. No, no, Parenzo, no, Parenzo perché ha toppato, questa volta ha toppato. Lo ammetta. Non ha toppato, ma perché, ma lei lo ammetta. il fatto che lei non capisca non mi stupisce, però voglio dire, il problema è un altro: l'autorevolezza del governo Monti finalmente in questo caso è venuta fuori, perché in barba alle segnalazioni dei partiti ha fatto di testaccia sua e per la prima volta ha fatto bene, anziché fare le consultazioni con BB, Bobo, Bubu, CCCD, PPD, PDU, Pupupu, ha messo i nomi sul tavolo e ha nominato due persone fottendosene dei partiti. Questo gli va riconosciuto, siccome i partiti sono scornati, allora dicono no, ma allora era meglio qualcun altro. Invece in questo caso bene questi, perché sono imposti da un governo tecnico e non da un accordo tra partiti, ha capito? Dipende qual è il mandato, naturalmente. Qual è il mandato di questi signori? No, ma come, chi se ne frega? È che quello significa? Di governare la RAI senza le influenze dei ma partiti. Ma governare che hanno la RAI cosa? Ma di Gale Mazzini. Ma non ma è importante pure le palle dell'influenza, no, dei partiti, Parenzo. L'importante è che funzioni la RAI, che già sta andando a rotoli. Ma questo non c'è dubbio, questo lo valuteremo, perché evidentemente... Vediamo qual è il mandato. Roberto da Milano, buonasera. Roberto, buonasera. Dica. Aspetti, tolgo il viva voce. Ecco, modo meglio, che me non sì. Sentirmi bene, mi scusi, ma l'attesa. Allora, glielo dico in amicizia proprio. A mio avviso, sì. Lei quando ha detto del fatto che la storia, sì, vabbè, adesso tanto però governano loro, di conseguenza quello che è stato, è un'emerita stronzata. Perché no, noi io non ho detto in questo. Io non è che ho detto. Quando parlavo con l'onorevole Mussolini, sì. Non è che ogni volta che parla uno e dice una cosa corretta bisogna dire no, però questa cosa qui, siccome prima ci sono stati 20 anni in cui avete governo, non, certo. Lei non la può dire. E se uno certo. dice una cosa più o meno corretta, certo. Si può anche accettare. Dopodiché, poi adesso diciamo la verità, l'onorevole Mussolini non è che sia stata lì, che la dica Brunetta, lo dica un altro, è un discorso, Tremonti, ma l'onorevole Mussolini era in Parlamento, un deputato, insomma, non è che avesse molte responsabilità. Mi scusi, ma io forse ho uno spirito molto poco cristiano, di conseguenza io il perdono non sono molto propenso. Che c'entra il perdono? Cioè... Il suo amico ha parlato di perdono, allora che bisogna fare? Bisogna ghigliottinare tutti? Nel momento in cui io sono in un settore orafo, è da 20 anni che la classe media italiana è stata massacrata letteralmente, prima un impiegato di banca poteva tranquillamente comprarsi una casa, una villettina, io abitavo con i miei genitori in un quartiere vicino Milano, in un paesino, e c'era l'impiegato di banca, l'assicurazione, è tutta gente che è stata letteralmente massacrata. Vabbè. Adesso c'è gente che o ha i soldi o non ha i soldi. Vogliamo andare indietro di 20 anni? Chi ha iniziato a far politica? Forza Italia, c'è stato il discorso delle Mani Pulite. Vabbè, allora? E dopodiché PD con le varie declinazioni e via di seguito. È una classe politica che deve prendere e dire... Signori, scusate, abbiamo combinato un emerito disastro. E via, a casa. E via, cioè non fa, almeno abbiano il coraggio di non farsi più vedere, di non farsi già più sentire. No, ma questo potrebbe essere, però quello che dice Roberto ha una sua coerenza. Cioè se uno negli ultimi 15-20 anni, questo centro-sinistra o centro-destra, non ha risolto assolutamente nulla, chi ha avuto posizioni di comando, chi ha avuto in mano il pallino, posizioni ma di certo. governo, non deve farsi più vedere. Se stiamo in questa condizione a livello di debito pubblico, eccetera, eccetera, non è che è colpa solamente di un governo, è colpa di tutti i governi che sono succeduti in Italia da 20 anni a questa parte. Dunque, chi ha avuto responsabilità non è che si può dire, no? Non si può chiamare fuori. Non c'è dubbio, però purtroppo se poi si presentano, il voto popolare gli dà il consenso, bisognerà vedere cosa accadrà adesso alle politiche. Però... Franco da Cosenza, fatemi il telefono di... non c'è più. Luca da Milano, fatemi il numero di Barbareschi. Ma che fine ha fatto Barbareschi? Sono novità lei che ha le agenzie che monitorano la situazione? No, non risponde al telefono. Ma dov'è? Sempre, ricordiamo che si fosse messo in collegamento su Andorra, insomma, ha fatto ha aggredito due colleghi delle Iene che volevano fargli solo qualche domanda e si è pare asserragliato. Colleghi delle Iene, ma usi questi termini desueti. Colleghi, due inviati delle Iene, due persone, due lavoratori delle Iene, due inviati delle Iene, due colleghi. Aspetta un attimo. Sì. Questo squilla, ma non risponde. Sono Barbareschi. Avrà messo la vibrazione. Ma che c'entra? È anche piacevole quando ti metti. Ma poi è uno dei telefoni di Barbareschi. L'hai mai fatto tu? No, l'hai mai fatto mettere il telefono alla vibrazione? Lo metti in tasca, nella tasca di... L'hai fatto mai? Ma sì, certo che l'ho fatto. No, vabbè, perché tarrabbe? Non risponde. Ma sarà ancora serragliato dentro gli studi, figurati. Vabbè. Chiamate la forza pubblica, scusa, fate sgomberare l'edificio. Zanzara Party di questa sera, particolarmente caldo, Parenzo, particolarmente caldo, direi. Abbiamo appena iniziato. No, appena iniziato no, perché sono passate due ore, però c'è una mezz'ora che si preannuncia scoppiettante, perché c'è la replica di Barbareschi, che è rintracciato dall'Ansa, oppure lui ha chiamato direttamente l'Ansa, dice... Oggi sono stato vittima di una vera e propria aggressione da parte di alcuni soggetti qualificatisi come inviati delle Iene. Ma come? Aspetta, i quali, muniti di telecamere, dopo essersi fraudolentemente introdotti sul set cinematografico del film Mi fido di te, malgrado già precedentemente respinti, mi hanno raggiunto nei locali dei servizi igienici dove mi trovavo. Aspetta, lì non paghi di aver violato un privato domicilio e l'intimità del sottoscritto. Mi hanno irretito verbalmente e fisicamente. Irretito verbalmente e fisicamente. Bella questa espressione, però. Essere irretiti verbalmente e fisicamente, che significa in realtà circondati. Tanto che ne è scaturita una colluttazione. Beh, non è che uno per forza, se uno viene... Se alcune telecamere ti si avvicinano e uno ti porge un microfono, non è che sei irretito verbalmente e fisicamente. Vabbè, ne è scaturita una colluttazione a seguito della quale la loro telecamera è andata in terra, il tutto al cospetto dell'intera troupe. Dell'assurda vicenda sono stati informati i carabinieri e delle conseguenze se ne occuperà la magistratura. Ma non ho capito, ma ribalta la realtà. Come ribalta la realtà? Tu che ne sai di qual è la realtà? Scusa. Ma scusami, ma perché leggi il passaggio in cui dice, cioè, improvvisamente la telecamera è caduta, ma qualcuno l'avrà urtata questa telecamera. Vabbè, lui dice che c'è stata una colluttazione, eccetera, eccetera. Abbiamo con noi Filippo Roma. Ciao Filippo. Ciao, buonasera. Eccoci qui. Sentivo tutte le cazzate che dice Barbareschi. Ma tutte cazzate dici? Tutte cose false, dimostrabili dalle nostre immagini. Ma tu sei ferito? Io per fortuna no, perché stavolta gli è andata male più che altro al regista, autore Occhi Pinti, perché lui che è stato più percosso ed è quello che poi ha subito il furto del cellulare, cosa che Barbareschi non ha raccontato. Scusa un attimo Filippo, ma però... Ma come è stato ferito? Però Pinti? Le immagini, sì, alla mano credo, si è fatto male alla mano. Sì, ma è gravissimo. Una cosa non grave, comunque è sempre... Taglietto, un taglio questo. Comunque insomma non è che non è che non sta scritto da nessuna parte uno debba subire una un taglio alla mano per ma posso dire una cosa? Dimmi Filippo. Noi siamo entrati in un set con i cancelli aperti, con la telecamera a vista, ci hanno fatto entrare, nessuno ci ha bloccato, ci hanno accolto gentilmente, abbiamo fatto delle domande alle maestranze sul film, ci dunque hanno prima cosa, non è che vi siete introdotti fraudolentemente. Bravo. No, perché siamo entrati trovando cancelli aperti e nessun tipo di sbarramento. Ma ci sono immagini di tutto quello che è accaduto? Perché la telecamera... Stiamo cercando di recuperarle, perché sono, diciamo, la cassetta è rimasta schiacciata dalle macerie della telecamera. Quindi adesso i nostri tecnici specializzati stanno cercando di recuperare la cassetta e dunque le immagini. Ma al di là di questo ci sono delle immagini interne che si possono recuperare? Che ne so, ormai ci sono telecamere ovunque. Guarda, ci dicono che all'interno di quei corridoi di questa fabbrica dove sarà allestito il set non ci sono telecamere interne e quindi le uniche immagini di cui disporremmo sono queste nella cassetta schiacciata dalla telecamera. E le immagini della presunta, cioè presunta no, perché io figurati ti conosco Occhi Pinti, non metto in dubbio quello che avete vissuto, però le immagini, chiamiamo la presunta aggressione di Barbareschi nei vostri confronti, ci sarebbero, dove si possono recuperare queste immagini? Recuperando la cassetta sono chiare anche, è chiara anche l'aggressione di Barbareschi. Telefonino. Telefonino? Il telefonino, diciamo, non ha fatto in tempo a filmare nulla perché appena, diciamo, Occhi Pinti l'ha sguainato, Barbareschi prontamente gliel'ha sottratto. Quello che ha fatto Barbareschi, ci hanno detto i carabinieri, che tecnicamente è una rapina, non è un furto, è una rapina, perché quando tu rubi una cosa con violenza si chiama rapina. Certo. Ma l'avete denunciato per questo o no? Sì, l'abbiamo denunciato chiaramente perché... Ma dove è finito sto telefonino? Bravo! Cioè ce l'ha lui in mano, che fa? Guarda, non si è capito dove sta. Ci dicono che all'interno dei locali dove era allestito il set, i carabinieri ci hanno detto che hanno fatto delle perquisizioni, delle ricerche, sono durate ben 4 ore e non è stato trovato. Ma che precedenti avevate? Che precedenti avevate con l'avevamo intervistato sempre occhi pinti tipo 2 anni fa in occasione di una festa mondana, ma lui era stato molto disponibile a lasciare l'intervista e poi basta. O ce l'ha con le Iene per altri motivi, ma con me occhi pinti non ha nessun pregresso. Però diciamo la verità, voi siete andati lì e l'obiettivo era quello di fare delle domande sul perché un deputato sta girando un film, due, perché tante assenze negli ultimi, perché cose legittime, perché tante assenze negli ultimi mesi, e poi forse una questione che riguarda il finanziamento di questi film, cioè forse lui sapeva tutto questo, no? No, no, ma perché, anche perché io non gli ho detto nulla di tutte queste cose che tu stai dicendo, non gli ho detto nulla. Io non ho fatto in tempo a dirgli, maestro, complimenti, lei sta esportando il cinema italiano in Cina, perché in Cina continuano le riprese, vabbè, e che questo è uscito fuori di senno, manco gli avessi detto chissà cosa, cioè non sono entrato nel merito di nessuna questione. Forse perché ha capito, avendo la coda di paglia... Ha capito che lo stavate pigliando per il culo. Avendo la coda di paglia, ma lui non sa... Vabbè, non è che gliel'hai chiesto così seriamente. Ha detto, maestro, state esportando vestiti da Iena, spesso lo facciamo noi. Barbareschi non è un maestro, per me è un maestro Barbareschi. Maestro di che cosa? Dai, finì, tu. Di cinema, maestro di cinema. Ma che maestro di cinema? Ma che maestro? I fratelli italiani sono Fellini o maestro di cinema? Chiamiamo Barbareschi in diretta, su, vediamo se risponde o non risponde a mai. No, ma chiama il cellulare di Occhi Pinti, la cosa più grave è il cellulare di Occhi Pinti. Ma il cellulare di Occhi Pinti... Esatto, perché noi vogliamo avere il cellulare, ci sono dentro le foto del figlio che fa recita. No, ma scusami, ma... Chiamate i RIS di Parma, fate mettere sotto sequestro l'intero locale, chiamate Taormina, fate qualcosa. Ma che devono chiamare? Guarda, adesso i carabinieri sono arrivati in forza, sono arrivati 3 carabinieri in borghese, un comandante, un colonnello, un maresciallo, sono stati lì dentro 4 ore e non hanno ricavato nulla, però loro ci hanno effettivamente poi detto che l'indagine è in corso, si sono fatti delle idee. Quindi non hanno preso sotto gamba la cosa, quindi probabilmente avremo delle risposte a breve. Uno dei cellulari di Barbareschi, tanto non risponderà mai, però con Lanza ha parlato, magari ha chiamato lui. Addio. 3 anni al pelliccio è una bella notizia, però adesso non voglio dire niente. Però 3 anni al pelliccio non è male. Vigile del fuoco mancato, signor Pelliccia. Un attimo solo, è sempre il telefono. Chiamatemi allora chiamatemi il centralino della sua casa di produzione, come si chiama? Casanova, eccetera. Casanova, che ne so. Ma la segretaria, chiamerà la segretaria, il suo Barbareschi? Non lo so, lo sanno quelli delle Iene, forse lo sapete voi, Filippo. No, non so, no, no, noi abbiamo tentato un numero, ma non ci ha risposto, non sappiamo altro, abbiamo fatto appello. Chiamiamolo a casa. A casa chi ce l'ha il numero di casa? C'è il numero, lo faremmo anche subito. Ma infatti, gli abbiamo lasciato un messaggio in segreteria, l'abbiamo pregato di restituirci il suo cellulare. Questo forse sì, si può lasciargli un messaggio in segreteria, è vero? Gliel'ho lasciato, però non mi ha più risposto. Comunque i carabinieri pare che abbiano trovato il cover del cellulare per terra sul set, o sbaglio? Quello è un forte indizio che diciamo che pone verso il furto avvenuto dentro questo set. Cioè, hanno trovato la cover dell'iPhone di Occhi Pinti. Beh, questa è la pistola fumante. Ma che pistola fumante? È la pistola fumante, la smoking gun questa. Però io prima ho detto che in realtà voi vi aspettate una reazione del genere, cioè certe reazioni le mettete nel conto, adesso senza drammatizzare troppo, è vero, benissimo, la denuncia per furto è assurdo, però insomma sono cose che gente come voi in prima linea, battaglie quotidiane, potete mettere anche nel conto, o sbaglio? Assolutamente sì, io per esempio sono stato, come ben sapete, aggredito dalla Carlucci qualche tempo fa, mi ha fatto male, mi ha tirato i capelli, ma non l'ho querelata perché metto in conto che quando vado a fare un servizio, siccome comunque un po' vado a rompere i coglioni, vi prendo tutte le conseguenze del caso, senza nulla di personale. Comunque ora, io voglio... È diverso, no, ma qui è diverso, c'è un furto, certo, c'è il furto, chi è questo qua? C'è l'iPhone? Questo chi è? Ah, Barbareschi, l'iPhone era prima, ditemelo, pensavo che prima fosse Barbareschi, non mi confondete così la regia. Questo adesso è Barbareschi, che non risponderà. Uno dei telefonini di Barbareschi che abbiamo. Caro Barbareschi, sei stato più volte ospite della Zanzara, rispondi, hai risposto a Lanza, rispondi, dici la tua. Io ho un numero, 06. Che 06 hai? Dai tranquillo, mi prendo tutte le responsabilità di questa cosa che sto facendo. 0668. Sì. Mi prendo tutte le responsabilità. E vai, prenditela. Mi denunzi pure, 06 68, ve lo faccio per la libertà di informazione. Vai. 68 64 sì. 849, mi denunzi pure ora. Mi prendo la responsabilità. 06 68 64 849, adesso la 68 gente... 64 849, mi assumo tutta la responsabilità. Vabbè, ma è una cosa gravissima quella che hai fatto. Mi denunzi pure. Mi denunzi. Cos'è questo? Ma non lo so, può ti essere. Pare del... il numero di casa, è il numero, della... è il numero che c'è su internet della sua casa di produzione. Vabbè, ma sei un cretino, ah. Sei. Cioè... Occhio che temera quello più che denunziare. Aspetta. No, ma è il numero della casa di produzione, vai su internet e c'è. Mi denunzino pure ora. Ma che ti denunciano? Mi denunzino pure. Tanto tu c'hai Taormina come difensore. Che la frega? Grande battaglia di Parenzo per la libertà di informazione. Ripeto il numero, cari ascoltatori della Zanzara. Mandate fax, attestati di stima agli amici delle Iene, malmenati, mentre stavano facendo le loro inchieste e il loro lavoro. Fax della casa di produzione 06. Casanova Multimedia. I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lasciate un messaggio. Beh, dalle 14 alle 18 un po' pochino. Qua... Ah sì, aspetta. È partito Bipo, no? È partito, sì. Buonasera, Giuseppe Cruciani, Davide Parenzo della Zanzara. Stiamo cercando l'onorevole Barbareschi per un'intervista su quello che è successo con le Iene. Vabbè, proviamo a chiamarlo sul cellulare, grazie. Adesso chiamiamo un altro grande amico delle Iene, un altro grande amico, Vittorio Sgarbi, per il Partito della Rivoluzione. Beh, bisogna chiamare un altro grande amico delle Iene, signor Sgarbi. Ci manca diretta. Solo il partito di Sgarbi, guarda. Il Partito della Rivoluzione. Voglio anche dirlo. Vittorio? Cruciani, come stai? Ciao. Bene. Che stai facendo? Il Partito della Rivoluzione? Sì. Quando lo presenti? Il 14 luglio. Ma possiamo venire noi? Voi potete venire, cioè, te lo presento a Parigi, a Bastiglia. A Parigi, a Bastiglia? Beh, ma che cazzo? Ma scusa, ma che cosa lo presenti a fare se poi la lista è in Italia, scusa? No, lo presento a Milano. Ah, Milano, il 14 luglio. Coincide. Lo presento all'ambasciata di Francia adesso. Vabbè, ma è una follia l'ambasciata. Beh, pagaci il viaggio e veniamo. Ma è a Milano, che viaggio deve pagare? A Milano. Perché credo che sarà a Milano. Milano o Roma, insomma. Vabbè, ma che più comodo, è più comodo a Parenzo, così si può iscrivere. Ma che il numero 6. Ma che bisogno c'è di fare questo un partito nuovo, caro Vittorio? No, dai. Che bisogno c'è? Guarda, basta che tu verifichi la parola rivoluzione della presentazione degli italiani, i due terzi degli italiani vogliono la rivoluzione, quindi non capisco perché devo fare un albergo 5 stelle. 5 stelle è una roba di uno che vuole invece che una poltrona una camera d'albergo. Soltanto questo prova. Per cui la parola rivoluzione è quella giusta, un'operazione di marketing. È una parola magica, è un partito della magia. Ma Berlusconi che dice, lo vuole? Berlusconi lo farà, che dovrà fare, non è che ha delle alternative, non è che si presenta con i suoi al guinzaglio. Ti va bene, ma io non ho capito. Se mette voi. Questo partito della rivoluzione va accanto a quello dei cani e dei gatti della Brambilla? No, quello dei cani e dei gatti se lo farà la Brambilla. Ma quello lo so, ma però io vado da solo. Ma tu vai da solo, ma dove vai da solo? Ma dove vai? Perché se vado da solo, lo vado da solo io. Ma sì, puoi andare a vedere. Sarei a vedere se non mangio grillo con un boccone solo. Ma che mangi grillo? Ma su, dai, ma dai. Il solito bagno di sangue, Vittorio, dai. Vabbè, fate il bagno di sangue. Ma comunque è buono fare un po'. Ma lo diciamo per te. Noi lo diciamo per te, non è che lo per diciamo. Te. Non preoccupatevi, già il solito bagno di sangue lo dice quel povero Pirla di Parenzo. No, Parenzo ha già fatto tutte le sue previsioni, che pigli l'1,8, eccetera. Vabbè, ma questo è Parenzo. Ma io ti voglio bene, io ti vorrei ministro della cultura, figurati, ma non fare sta roba che butti via soldi, fai un partito che non serve non a niente. Non preoccuparti. Scusa un attimo, Vittorio, ma hai saputo quello che è successo a Barbareschi con le Iene, aggressioni, cose? No, le Iene, sai, sono andate a fare. Sono andate da Barbareschi. Sì, e lui le ha aggredito. Pare che abbia aggredito, li abbia aggrediti, distrutto telecamere, eccetera. Perché lui sta girando un film, è deputato, non va in Parlamento e sta girando un film, che è una cosa gravissima. Sì, sì. È gravissima, sono delle tante. Un avvocato può fare l'avvocato. Certo, soltanto a me l'hanno impedito di andare in televisione, ma questo. Vabbè, questa è un'altra cosa. Mica avrà fatto bene ad aggredire questi qua delle Iene, no? Ma non lo so, certo, le Iene meritano di essere aggredite e agiranno, no? Non è che meritano sempre di essere aggrediti, non è che per default, o no? Si dico, ma cosa gliene frega mai di quello che fa Barbareschi? Che argomento è? Cioè, ti pare che uno si va a preoccupare di quello che fa Barbareschi? Se fa un film perché è deputato, ma chi se ne frega? Beh, non è bello che uno sta in Parlamento, 90% di assenza negli ultimi 6 mesi e va a girare un film a Hong Kong, non è bellissimo, diciamo la verità. Sì, ma vorrei sapere cosa c'è di bello. È quasi come te che non andavi mai al Parlamento Europeo, mi ricordo. Bravi. Bravi. Però capisci che lo diciamo con affetto e con amore, figurati. Però se uno sa che non ci può andare in un posto, non ci va direttamente, no? Bravi, siete voi dover fare la morale. Ma no, la morale non è la morale, no. Noi non facciamo la morale, facciamo delle piccole considerazioni. Fa pena, siete due poveretti che stanno lì a rabattarsi, a raccontare un sacco di stronzate, pettegoli, tutti pettegolesi. Ma che pettegoli sono tizi? Proprio di pettegolume, tristissimo. Tristissimo, vabbè. Ma, ci pagano pure, sai? Lo so, vi appunto, pagano due coglioni come voi, figurati i barbaresi cosa deve valere. Se pagano Parenzo, quale idea esprime Parenzo? Beh, adesso un'idea nella sua vita, se no leccare il culo alla Lega e fare il libro romanzo padano. Ma che andiamo a raccontare, presentiamolo. Ma che c'entra, scusa? No, quello che c'entra, c'è un padrone, gli lecchi il culo. Ho scritto un libro per Berlusconi. Non è stato mai un mio...